Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Barbara, Roma. La Divina Commedia di Dante Alighieri, libro terzo, capitolo 17, canti 17, 18 e 19. Inizio del canto 17. Qual venne a Climenè per accertarsi di ciò che aveva incontro a sé udito, quei che ancor fa di padre e figli scarsi. Tale era io, e tale era sentito e da Beatrice e dalla santa Lampa, che pria per me aveva mutato sito. Perché mia donna, manda fuor la vampa del tuo disio, mi disse, sicché la esca segnata bene della interna stampa. Non perché nostra conoscenza cresca per tuo parlare, ma perché t'ha usi a dir la sete, sicché l'uom ti mesca. O cara piota mia, che sì t'insusi, che, come veggion le terrene menti, non capere in triangolo due ottusi. Così vedi le cose contingenti, anziché siano in sé, mirando il punto a cui tutti i tempi sono presenti. Mentre ch'io era a Virgilio congiunto su per lo monte che l'anime cura, e discendendo nel mondo defunto, dette mi fuor di mia vita futura parole gravi. Avvegna ch'io mi senta, ben te tragono ai colpi di ventura, perché la voglia mia sia contenta di intender qual fortuna mi s'appressa, che saetta previsa vien più lenta. Così dissi io a quella luce stessa che prima aveva parlato, e come volle Beatrice fu la mia voglia confessa. Né per ambage, in che la gente folle già s'inviscava pria che fosse anciso l'angel di Dio che le peccata tolle, ma per chiare parole e con preciso latin rispose quello amor paterno, chiuso e parvente del suo proprio riso. La contingenza, che fuor del quaderno della vostra matera non si stende, tutta è dipinta nel cospetto eterno. Necessità, però, quindi non prende, se non come dal viso in che si specchia nave che per torrente giù discende. Da indi, siccome viene ad orecchia dolce armonia da organo, mi viene a vista il tempo che si t'apparecchia. Qual si partio Ippolite d'Atene per la spietata e perfida Noverca, tal di Fiorenza partirti convene. Questo si vuole e questo già si cerca, e tosto verrà fatto a chi ciò pensa laddove Cristo tutto di si merca. La colpa seguirà la parte offensa, in grido, come suol, ma la vendetta fia testimonia al ver che la dispensa. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che l'arco dello essilio pria saetta. Tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scendere il salir per l'altrui scale. E quel che più ti graverà le spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai in questa valle, che tutta ingrata, tutta matta ed empia si farà contra te, ma poco appresso ella, non tu, n'avrà rossa la tempia. Di sua bestialitate il suo processo farà la prova, sicché a te fia bello averti fatta parte per te stesso. Lo primo tuo rifugio e il primo ostello sarà la cortesia del gran Lombardo, che in su la scala porta il santo uccello. Chi in te avrà sì benigno riguardo, che del fare e del chieder tra voi due fia primo quel che tra gli altri è più tardo. Con lui vedrai colui che impresso fue nascendo, sì da questa stella forte che notabil fier l'opere sue. Non se ne son le genti ancora accorte per la novella età, che pur 9 anni son quelle rote intorno a lui torte. Ma pria che il guasco l'alto arrigo inganni, parran faville della sua virtute, in non curar d'argento né d'affanni. Le sue magnificenze conosciute saranno ancora, sì che i suoi nemici non ne potranno tenere le lingue mute. A lui t'aspetta i suoi benefici. Per lui fia trasmutata molta gente, cambiando condizione ricchi e mendici, e porteranno scritto nella mente di lui e non lo dirai. E disse cose incredibili a quei che fia presente. Poi giunse: Figlio, queste sono le chiose di quel che ti fu detto. Ecco le insidie che dietro a pochi giri sono nascose. Non vo' però che ai tuoi vicini invidie, poscia che si infutura la tua vita, via più là che il punir di lor perfidie. Poiché, tacendo, si mostrò spedita l'anima santa di metter la trama in quella tela che io le porsi ordita, io cominciai, come colui che brama, dubitando, consiglio da persona che vede e vuol dirittamente e ama. Ben veggio, padre mio, siccome sprona lo tempo verso me, per colpo d'armi tal che più grave a chi più s'abbandona. Perché di provvidenza è buon ch'io m'armi, sicché, se l'ho come tolto più caro, io non perdessi gli altri per miei carmi. Giù per lo mondo senza fine amaro e per lo monte del cui bel cagume gli occhi della mia donna mi levaro e poscia per lo ciel di lume in lume ho io appreso quel che s'io ridico a molti fia sapor di forte agrume e s'io al ver son timido amico temo di perder viver tra coloro che questo tempo chiameranno antico. La luce in che rideva il mio tesoro ch'io trovai lì si fe prima corrusca, quale a raggio di sole specchio d'oro, indi rispose: Coscienza fusca, o della propria o dell'altrui vergogna, pur sentirà la tua parola brusca, ma non di men rimossa ogni menzogna, tutta sua vision fa manifesta e lascia pur grattar dov'è la rogna. Che se la voce tua sarà molesta nel primo gusto, vital nodrimento lascerà poi quando sarà digesta. Questo tuo grido farà come vento, che le più alte cime più percuote, e ciò non fa d'onor poco argomento. Però ti son mostrate in queste rote, nel monte, nella valle dolorosa, pur l'anime che son di fama note. Che l'animo di quel code non posa né ferma fede per essere improcaia la sua radice incognita ed ascosa, né per altro argomento che non paia. Fine del canto 17. Inizio del canto 18. Già si godeva solo del suo verbo quello specchio beato, e io gustava lo mio, temprando col dolce l'acerbo, e quella donna che a Dio mi menava disse: Muta pensier, pensa che io sono presso a colui che ogni torto disgrava. Io mi rivolsi all'amoroso suono del mio conforto, e quali allor vidi negli occhi santi amor, qui l'abbandono. Non perch'io pur del mio parlar diffidi, ma per la mente che non può redire sovra sé tanto, s'altri non la guidi. Tanto poss'io di quel punto ridire che, rimirando lei, lo mio affetto libero fu da ogni altro disire, finché il piacere eterno che diretto raggiava in Beatrice dal bel viso mi conteneva col secondo aspetto. Vincendo me col lume d'un sorriso, ella mi disse: Volgiti e ascolta, che non pur nei miei occhi è paradiso. Come si vede qui alcuna volta, l'affetto nella vista, s'egli è tanto che da lui sia tutta l'anima tolta, così nel fiammeggiar del fulgor santo a ch'io mi volsi, conobbi la voglia in lui di ragionarmi ancora alquanto. El cominciò. In questa quinta soglia dell'albero che vive della cima e frutta sempre e mai non perde foglia, spiriti son beati che giù per prima che venissero al ciel, fuor di grande voce, siccogne musa ne sarebbe opima. Però mira nei corni della croce, quello che io nomerò lì farà l'atto che fa in nube il suo fuoco veloce. Io vidi per la croce un lume tratto dal nomar Giosuè, come il Sifeo, né mi fu noto il dir prima che il fatto. E al nome dell'alto Macabeo vidi muoversi un altro roteando, e Letizia era felsa del Paleo. Così per Carlo Magno e per Orlando due ne seguì lo mio attento sguardo, come occhio segue il suo falcon volando. Poscia trasse Guglielmo e Rinoardo, e il duca Gottifredi la mia vista per quella croce e Ruberto Guiscardo. Indi, tra l'altre luci mota e mista, mostròmi l'alma che m'avea parlato, qual era tra i cantor del cielo artista. Io mi rivolsi dal mio destro lato per vedere in Beatrice il mio dovere, o per parlare o per atto segnato. E vidi le sue luci tanto mere, tanto gioconde, che la sua sembianza vinceva gli altri e l'ultimo solere. E come per sentire più dilettanza bene operando, l'uom di giorno in giorno s'accorge che la sua virtute avanza, sì m'accorsi io che il mio girare intorno col ciel insieme aveva cresciuto l'arco, veggendo quel miracolo più adorno. E qualche il trasmutare in piccol varco di tempo in bianca donna, quando il volto suo si discarchi di vergogna il carco, tal fu negli occhi miei quando fui volto per lo candor della temprata stella sesta che dentro a sé m'aveva ricolto. Io vidi in quella giovial facella lo sfavillar dell'amor che lì era segnare agli occhi miei nostra favella, e come ogelli surti di ripera quasi congratulando a lor pasture hanno di sé or tonda or altra schiera, si dentro ai lumi sante creature volitando cantavano e facensi or di or i orelle in sue figure. Prima cantando a sua nota moviensi, poi diventando l'un di questi segni un poco s'arrestavano e tacensi. O diva Pegasea che l'ingegni fai gloriosi e rendili longevi, ed essi teco le cittadi e regni, illustrami di te, sio ch'io rilevi le lor figure come io l'ho concette, paia tu possa in questi versi brevi. Mostrarsi dunque in cinque volte sette vocali e consonanti, e io notai le parti sì come mi parver dette. Dirigite justitiam, primai fur verbo e nome di tutto il dipinto. Qui giudicatis terra, fur sezzai. Poscia nell'emme del vocabol quinto rimasero ordinate, siccome Giove parea argento lì d'oro distinto, e vidi scender altre luci dove era colmo dell'emme e lì quetarsi cantando, credo, in ben che a sé le muove. Poi, come nel percuoter di ciò che arsi surgore innumerevoli faville, onde gli stolti soglio inaugurarsi, resurger parve quindi più di mille luci e salir, qual assai qual poco, siccome il sol che l'accende sortille. E quietata ciascuno il suo loco, la testa e il collo d'anguglia vidi rappresentar a quel distinto fuoco. Quei che dipinge lì non ha chi il guidi, ma esso guida, e da lui si rammenta quella virtù che è forma degli nidi. L'altra beatitudo che contenta pareva prima di ingigliarsi all'emme, con poco moto seguitò l'imprenta. O dolce stella, quali e quante gemme mi dimostrarono la nostra giustizia effetto sia del ciel che tu in gemme. Perch'io prego la mente in che si inizia suo moto e sua virtute, che rimiri ond'esce il fumo che il tuo raggio vizia. Sì, con altra fiata ormai s'adiri nel comperare e vender dentro al templo che si murò di segni e di martiri. O milizia del ciel, cui io contemplo, adora per color che sono in terra tutti sviati dietro al malo esempio. Già si solea con le spade far guerra, ma or si fa togliendo or qui or quivi lo pan che il pio padre a nessun serra. Ma tu, che sol per cancellare scrivi, pensa che Pietro e Paolo, che moriron per la vigna che guasti, ancor son vivi. Ben puoi tu dire: io fermo il disiro, sì ca colui che volle viver solo e che per salti fu tratto al martiro, ch'io non conosco il pescator né Polo. Fine del canto 18. Inizio del canto 19. Parea dinanzi a me con l'ali aperte la bella immagine che nel dolce frui liete faceva l'anime conserte. Parea ciascuna rubinetto in cui raggio di sole ardesse sì acceso che nei miei occhi rinfrangesse lui. E quel che mi convien ritrarte steso non portò voce mai, né scrisse in costro, né fu per fantasia giammai compreso. Ch'io vidi e anche udì parlar lo rostro e sonarne la voce e io e mio quando era nel concetto e noi e nostro. E cominciò: per esser giusto e pio son io qui esaltato a quella gloria che non si lascia vincere a disio. In terra lasciai la mia memoria sì fatta che le genti lì malvagie commendan lei ma non seguon la storia. Così un sol calore di molte brage si fa sentir come di molti amori usciva solo un suono di quella immagine. Ond'io appresso: o perpetui fiori dell'eterna letizia, che pur uno parer mi fate tutti i vostri odori, solvetemi spirando il gran digiuno che lungamente m'ha tenuto infame, non trovandoli in terra cibo alcuno. Ben so io che se in ciel altro reame la divina giustizia fa suo specchio, che il vostro non l'apprende col velame. Sapete come attento io m'apparecchio ad ascoltar, sapete qual è quello dubbio che m'è digiuno cotanto vecchio. Quasi falcone ch'esce del cappello, muove la testa e con l'ali si plaude, voglia mostrando e facendosi bello, vidi io farsi quel segno che di laude della divina grazia era contesto con canti quai si sa chi là su gaude. Poi cominciò: colui che volse il sesto allo stremo del mondo e dentro ad esso distinse tanto occulto e manifesto non poté suo valor si fare impresso in tutto l'universo che il suo verbo non rimanesse in infinito eccesso. E ciò fa certo che il primo superbo, che fu la somma d'ogni creatura, per non aspettar lume, cadde acerbo. E quinci appar ogni minor natura è corto recettacolo a quel bene che non ha fine, e se con sé misura. Dunque, vostra veduta, che convene essere alcun dei raggi della mente di tutte le cose son ripiene, non può da sua natura esser possente tanto che suo principio non discerna molto di là da quel che l'è parvente. Però nella giustizia sempre eterna, la vista che riceve il vostro mondo come occhio per lo mare, entro s'interna, che, benché dalla proda vegge il fondo, in pelago non vede, e non di meno eli, ma c'era lui l'esser profondo. Lume non è, se non vien dal sereno che non si turba mai, anzi è tenebra od ombra della carne o suo veleno. Assai temo aperta la latebra che t'ascondeva la giustizia viva, di che facei questione co tanto crepa che tu dicevi. Un uomo nasce alla riva dell'Indo e quivi non è chi ragioni di Cristo, né chi legga, né chi scriva, e tutti i suoi voleri e atti buoni sono quanto ragione umana vede, senza peccato in vita o in sermoni. Muore non battezzato e senza fede. Ov'è questa giustizia che il condanna? Ov'è la colpa sua se non crede? Or tu chi sei che può sedere a scranna per giudicar di lunghi mille miglia con la veduta corta d'una spanna? Certo, a colui che meco s'assottiglia, se la scrittura sopra voi non fosse, da dubitar sarebbe a maraviglia. O terreni animali, o menti grosse, la prima volontà che è da sé buona, da sé che è sommo ben, mai non si mosse. Cotanto è giusto quanto a lei consuona, nullo creato bene a sé la tira, ma essa radiando lui cagiona. Quale sovresso il nido si rigira, poi che ha pasciuti la cicogna ai figli, e come quel che passa la rimira, cotal si fece e si levai i cigli, la benedetta immagine che l'ali movea sospinte da tanti consigli. Roteando cantava e diceva: quali son le mie note a te che non le intendi? Tal è il giudizio eterno a voi mortali. Poi si quietaron quei lucenti incendi dello Spirito Santo ancor nel segno che fe i Romani al mondo reverendi. Esso incominciò: a questo regno non salì mai chi non credette in Cristo, né pria né poi che il si chiamasse al legno. Ma vedi, molti gridan Cristo, Cristo, che saranno in giudizio assai men probe a lui che tal che non conosce Cristo, e tai cristiani dannerà l'Etiope quando si partiranno i due collegi, l'uno in eterno ricco e l'altro in ope, che poran dirli perse ai vostri regi, come vedranno quel volume aperto nel qual si scrivono tutti i suoi dispregi. Lì si vedrà tra l'opera d'Alberto quella che tosto muoverà la penna, perché il regno di Praga fia disserto. Lì si vedrà il duol che sovra Senna induce, falseggiando la moneta, quel che morrà di colpo di cotenna. Lì si vedrà la superbia casseta che fa lo scotto e l'inghilese folle, sì che non si può soffrir dentro a sua meta. Vedrassi la lussuria e il viver molle di quel di Spagna e di quel di Boemme, che mai valor non conobbe né volle. Vedrassi al ciotto di Gerusalemme segnata con un i la sua bontate, quando il contrario segnerà un M. Vedrassi l'avarizia e la viltate di quei che guarda l'isola del fuoco, ove anch'ise finì la lunga etate, e a dare ad intender quanto è poco la sua scrittura fian lettere mozze, che noteranno molto in parvo loco, e parranno a ciascun l'opere sozze del barba e del fratel, che intanto egregia nazione e due corone han fatte bozze.

mi pinse con la forza del suo peso, perch'io di coruscarvi di gran feste. Poi appresso, con l'occhio più acceso, lo benedetto segno mi rispose, per non tenermi in ammirar sospeso. Io veggio che tu credi queste cose, perch'io le dico, ma non vedi come, sicché, se son credute, sono ascose. Fai come quei che la cosa per nome apprende bene, ma la sua acquiditate veder non può, se altri nulla prone. Regnum celoro, violenza fate, da caldo amor e da viva speranza, che vince la divina volontate. Non a guisa che l'uomo all'uomo sobranza, ma vince lei perché vuole essere vinta, e vinta vince la sua beneanza. La prima vita del ciglio e la quinta ti far maravigliar, perché ne vedi la region degli angeli dipinta. Di corpi suoi non uscir come credi, gentil, ma cristiani, in ferma fede, quel di passuri e quel di passi piedi, che l'una dell'inferno, un non si riede giammai a buon voler, tornò all'ossa, e ciò di viva spene fu mercede, di viva spene che mise la possa nei pregi fatti a Dio per suscitarla, sicché potesse sua voglia essere mossa. L'anima gloriosa, onde si parla, tornata nella carne, in che fu poco, credete in lui che poté aiutarla. E credendo s'accese in tanto fuoco di vero amor, che alla morte seconda fu degna di venire a questo gioco. L'altra, per grazia che da sì profonda fontana stilla, che mai creatura non pinse l'occhio infino alla prima onda, tutto suo amor laggiù pose addrittura. Perché di grazia in grazia Dio gli aperse l'occhio alla nostra redenzione futura. Ond'ei credette in quella e non sofferse da indi il puzzo più del paganesimo e riprendine le genti perverse. Quelle tre donne lì fu per battesimo che tu vedesti dalla destra rota dinanzi al battezzar più di un millesimo. O predestinazione, quanto remota è la radice tua da quegli aspetti che la prima cagion non vegion tota. E voi, mortali, tenetevi stretti a giudicare che noi, che Dio vedemo, non conosciamo ancora tutti gli eletti. Ed enne dolce così fatto scemo, perché il bel nostro in questo ben s'affina che quel che vuole Dio noi volemo. Così, da quella immagine divina, per farmi chiara la mia corta vista, datami fu soave medicina. E come a buon cantor, buon citarrista, fa seguitar lo guizzo della corda, in che più di piacer lo canto acquista, sì, mentre che parlò, sì mi ricorda ch'io vidi le due luci benedette, pur come batter d'occhi si concorda, con le parole mover le fiammette. Fine del canto ventesimo. Inizio del canto ventunesimo. Già erano gli occhi miei rifissi al volto della mia donna, e l'animo con essi, e da ogni altro intento s'era tolto. E quella non ridea, ma, se io ridessi, mi cominciò, tu ti faresti quale fosse melè quando di cener fessi. Che la bellezza mia, che per le scale dell'eterno palazzo più s'accende, com'hai veduto, quanto più si sale, se non si temperasse, tanto splende, che il tuo mortar podere al suo fulgore sarebbe fronda che trono scoscende. Noi siamo levati al settimo splendore, che sotto il petto del leone ardente raggia mon misto giù del suo valore. Ficca di retro agli occhi tuoi la mente e fa di quegli specchi alla figura che in questo specchio ti sarà parvente. Qual sapesse qual era la pastura del viso mio nell'aspetto beato quando io mi trasmutai ad altra cura, conoscerebbe quanto m'era grato ubbidire alla mia celeste scorta, contrappesando l'un con l'altro lato. Dentro al cristallo che il vocabol porta, cerchiando il mondo del suo caro duce, sotto cui giacque ogni malizia morta, di color d'oro in che raggio trasluce, vid'io uno scaleo eretto in suso tanto che nol seguiva la mia luce. Vidi anche per li gradi scender giuso tanti splendor, ch'io pensai ch'ogni lume che par nel cielo quindi fosse diffuso, e come per lo natural costume le pole insieme al cominciar del giorno si muovon a scaldar le fredde piume. Poi altre vanno via senza ritorno, altre rivolgon sé onde son mosse, altre roteando fan soggiorno. Tal modo parve a me che qui vi fosse in quello sfavillar che insieme venne, siccome in certo grado si percosse. E quel che presso più ci si ritenne, si fe sì chiaro ch'io dicea pensando. Io veggio ben l'amor che tu m'accenne, ma quella ond'io aspetto il come e il quando del dire e del tacer si sta, ond'io contra il disio fo ben ch'io non la dimando. Perch'ella, che vedea il tacer mio nel veder di colui che tutto vede, mi disse: solvi il tuo caldo disio. E io incominciai: la mia mercede non mi fa degno della tua risposta, ma per colei che il chieder mi concede, vida beata che ti stai nascosta dentro alla tua letizia, fammi nota la cagion che sì presso mi t'apposta, e di perché si tace in questa rota la dolce sinfonia di paradiso, che giù per le altre suona si divota. Tu hai l'udir mortal siccome il viso, rispose a me, onde qui non si canta, per quel che Beatrice non ha riso. Giù per li gradi della scala santa, discesi tanto sol per farti festa col dire con la luce che mi ammanta. Né più amor mi fece esser più presta, che più e tanto amor quinci sofferbe, siccome il fiammeggiar ti manifesta. Ma l'alta carità, che ci fa serve pronte al consiglio che il mondo governa, sorteggia qui, siccome tu osserbe. Io veggio ben, diss'io, sacra lucerna, come libero amore in questa corte bassa seguir la provvidenza eterna. Ma questo è quel ch'a cerner mi par forte, perché predestinata fosti sola a questo ufficio tra le tue consorte. Né venni prima all'ultima parola, che del suo mezzo fece il lume centro, girando a sé come veloce mola. Poi rispose l'amor che v'era dentro. Luce divina sopra me s'appunta, penetrando per questa in ch'io mi inventro, la cui virtù col mio veder congiunta mi leva sopra me tanto ch'io veggio la somma essenza della quale è monta. Quinci vien l'allegrezza ond'io fiammeggio, perché alla vista mia, quand'ella è chiara, la chiarità della fiamma pareggio, ma quell'alma nel ciel che più si schiara, quel serafin che in Dio più l'occhio affisso, alla dimanda tua non satisfara, però che sì si inoltra nello abisso dell'eterno statuto quel che chiedi, che da ogni creata vista è scisso. E al mondo mortal, quando tu riedi, questo rapporta, sicché non presumma a tanto segno più muoverli i piedi. La mente, che qui luce, in terra fumma, onde riguarda come può laggiue quel che non pote perché il ciel assumma. Sì mi prescrisser le parole sue, ch'io lasciai la questione e mi ritrassi a dimandarlo umilmente chi fue. Tra due liti d'Italia surgon sassi, e non molto distanti alla tua patria, tanto che troni assai suonan più bassi e fanno un giubbo che si chiama Catria, di sotto al qual è consecrato un ermo che suole essere disposto a sola latria. Così ricominciommi il terzo sermo e poi, continuando, disse: Quivi, al servizio di Dio, mi fessi fermo, che pur con cibi di liquor d'ulivi, lievemente passavan caldi e geli, contento nei pensier contemplativi. Render solea quel chiostro a questi cieli fertilmente, e ora è fatto vano, sicché tosto convien che si riveli. In quel luogo fu io Pietro Damiano, e Pietro peccator fu nella casa di Nostra Donna in sul lito Adriano. Poca vita mortal m'era rimasta quando fui chiesto e tratto a quel cappello che pur di male in peggio si travasa. Venne Cefas e venne il gran vassello dello Spirito Santo, magri e scalzi, prendendo il cibo da qualunque ostello. Or voglian quinci e quindi chi rincalzi li moderni pastori e chi li meni, tanto son gravi, e chi rietro li alzi. Cuopron di manti loro i palafreni, sicché due bestie van sotto una pelle. O pazienza che tanto sostieni! A questa voce vidi io più fiammelle di grado in grado scendere e girarsi, e ogni giro le facea più belle. D'intorno a questa vennero e fermarsi, e fero un grido di sì alto suono che non potrebbe qui assomigliarsi. Né io lo intesi, sì mi vinse il tuono. Fine del canto 21. Fine del capitolo 17.